o almeno levata. Oh, sia ringraziato il Signore. Renzo si avvicinò a padre Cristoforo per poter parlare sottovoce. C'è un altro imbroglio. Cosa c'è? Voglio dire che... Già lei lo sa com'è buona quella povera giovine, ma alle volte è un po' fissa nelle sue idee. Dopo tante promesse, dopo tutto quello che sa anche lei, ora dice che non mi può sposare, perché dice, che so io, che quella notte della paura si è scaldata la testa e si è, come a dire, votata alla Madonna. Cose senza costrutto, non è vero? Cose buone, chi ha la scienza è il fondamento di farle, ma per noi gente ordinaria, che non sappiamo bene come si devono fare, non è vero che sono cose che non valgono? Dimmi, è molto lontana di qui? Oh no, pochi passi di là dalla chiesa. Aspettami qui un momento, disse il frate. E poi ci anderemo insieme. Vuol dire che lei le farà intendere? Non so nulla, figliuolo. Bisogna che io senta da lei. Oh, capisco, disse Renzo, e stette con gli occhi fissi a terra e con le braccia incrociate sul petto a masticarsi la sua incertezza rimasta intera. Il frate andò di nuovo in cerca di quel padre Vittore. Lo pregò di supplire ancora per lui, entrò nella sua capanna, n'uscì con la sporta in braccio, tornò da Renzo, gli disse «Andiamo» e andò innanzi, avviandosi a quella tal capanna dove, qualche tempo prima, erano entrati insieme. Questa volta entrò solo e dopo un momento ricomparve e disse «Niente». Preghiamo, preghiamo. Poi riprese, ora conducimi tu. E senza dir altro s'avviarono. S'era andato sempre più rabbuiando e annunziava ormai certa e poco lontana la burrasca. Dei lampi fitti rompevano l'oscurità cresciuta e lumeggiavano d'un chiarore istantaneo i lunghissimi tetti e gli archi dei portici, la cupola della cappella, i bassi comignoli delle capanne e i tuoni, scoppiati con strepito repentino, scorrevano rumoreggiando dall'una all'altra regione del cielo. Andava innanzi il giovine, attento alla strada, con una grande impazienza d'arrivare e rallentando però il passo per misurarlo alle forze del compagno, il quale, stanco dalle fatiche, aggravato dal male, oppresso dall'afa, camminava stentatamente, alzando ogni tanto al cielo la faccia smunta, come per cercare un respiro più libero. Renzo, quando vide la capanna, si fermò, si voltò indietro, disse con voce tremante, «È qui!» Entrano. «Eccoli!» grida la donna dal lettuccio. Lucia si volta, s'alza precipitosamente, va incontro al vecchio gridando, «Oh, chi vedo!» «Oh, padre Cristoforo!» «Ebbene, Lucia, da quante angustie va liberata il Signore. Dovete essere ben contenta d'aver sempre sperato in Lui. Oh sì, ma lei, padre, oh, povera me, com'è cambiato, come sta, dica, come sta? Come Dio vuole e come per sua grazia voglio anch'io, rispose con volto sereno il frate, e tiratala in un canto soggiunse: sentite, io non posso rimaner qui che pochi momenti. Siete voi disposta a confidarvi in me come altre volte? Oh, non è lei sempre il mio padre? Figliuola, dunque, cos'è codesto voto che m'ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna, oh, in una gran tribolazione, di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora che eravate legata da una promessa? Trattandosi del Signore e della Madonna, non ci ho pensato. Il Signore, figliuola, gradisce i sacrifici, le offerte, quando le facciamo del nostro. È il cuore, è la volontà. Ma voi non potevate offrirgli la volontà d'un altro, al quale v'eravate già obbligata. Ho fatto male? No, poverina, non pensate a questo. Io credo anzi che la Vergine Santa avrà gradita l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma ditemi, non vi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa? Io non pensavo che fosse male da dovermene confessare, e quel poco bene che si può fare si sa che non bisogna raccontarlo. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatta a Renzo? In quanto a questo, per me, che motivo, non potrei proprio dire, rispose Lucia con un'esitazione che indicava tutt'altro che un'incertezza del pensiero, e il suo viso, ancora scolorito dalla malattia, fiorì tutta un tratto del più vivo rossore. Credete voi, riprese il vecchio abbassando gli occhi, che Dio ha data alla sua chiesa l'autorità di rimettere e di ritenere, secondo che torni in maggior bene, i debiti e gli obblighi che gli uomini possono aver contratti con lui? Sì, che lo credo. Ora sappiate che noi, deputati alla cura dell'anime in questo luogo, abbiamo, per tutti quelli che ricorrono a noi, le più ampie facoltà della Chiesa, e che per conseguenza io posso, quando voi lo chiediate, sciogliervi dall'obbligo qualunque sia che possiate aver contratto a cagion di codesto voto. Ma non è peccato tornare indietro, pentirsi d'una promessa fatta alla Madonna? Io allora l'ho fatta proprio di cuore, disse Lucia, violentemente agitata dall'assalto d'una tale inaspettata, bisogna pur dire speranza, e dall'insorgere opposto d'un terrore fortificato da tutti i pensieri che da tanto tempo erano la principale occupazione dell'animo suo. Peccato, figliuola, disse il padre, peccato il ricorrere alla Chiesa e chiedere al suo ministro che faccia uso dell'autorità che ha ricevuto da essa e che essa ha ricevuto da Dio. Io ho veduto in che maniera voi due siete stati condotti ad unirvi, e certo, se mai m'è parso che due fossero uniti da Dio, voi altri eravate quelli. Ora non vedo perché Dio v'abbia a voler separati, e lo benedico che m'abbia dato, indegno come sono, il potere di parlare in suo nome e di rendervi la vostra parola. E se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolta da codesto voto, io non esiterò a farlo, e desidero anzi che me lo chiediate. Allora lo chiedo, disse Lucia, con un volto non turbato più che di pudore. Il frate chiamò con un cenno il giovine, il quale se ne stava nel cantuccio più lontano, guardando, giacché non poteva far altro, fisso fisso al dialogo in cui s'era tanto interessato. E quando quello fu lì, disse a voce più alta a Lucia: «Con l'autorità che ho dalla Chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci poté essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta. Pensi, lettore, che suono facessero all'orecchio di Renzo tali parole. Ringraziò vivamente con gli occhi colui che le aveva proferite e cercò subito, ma invano, quelli di Lucia. Tornate con sicurezza e con pace ai pensieri d'una volta», seguì a dirle il cappuccino. «Chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedevate d'essere una moglie santa e confidate che ve le concederà più abbondanti dopo tanti guai. E tu», disse voltandosi a Renzo, «ricordati, figliuolo, che se la Chiesa ti rende questa compagna non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, la quale, se anche potesse essere intera e senza mistura d'alcun dispiacere, dovrebbe finire in un gran dolore al momento di lasciarvi, ma lo fa per avviarvi tutte e due sulla strada della consolazione, che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero d'avere a lasciarvi e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che va condotti a questo stato, non per mezzo d'allegrezze turbolente e passeggere, ma co travagli e tra le miserie, per disporvi a un'allegrezza raccolta e tranquilla. Se Dio vi concede figliuoli, abbiate in mira d'allevarli per Lui, distillar loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini, e allora li guiderete bene in tutto il resto. Lucia, va detto, e accennava Renzo, chi ha visto qui? Oh padre, me l'ha detto. Voi pregherete per Lui, non ve ne stancate, e anche per me pregherete. Figliuoli, voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò dalla sporta una scatola, d'un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappuccinesca, e proseguì: «Qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi altri. Serbatelo, fatelo vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo e in tristi tempi, in mezzo a superbi e a provocatori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino anche loro per il povero frate». E porse la scatola a Lucia, che la prese con rispetto, come si farebbe d'una reliquia. Poi, con voce più tranquilla, riprese: «Ora ditemi, che appoggi avete qui in Milano, eh? Dove pensate d'andare a alloggiare appena uscita di qui? E chi vi condurrà da vostra madre, che Dio voglia aver conservata in salute?» «Questa buona signora mi fa lei intanto da madre. Noi due usciremo di qui insieme e poi essa penserà a tutto». «Dio la benedica», disse il frate accostandosi al lettuccio. «La ringrazio anch'io», disse la vedova, «della consolazione che ha data a queste povere creature. Sebbene io avessi fatto conto di tenerla sempre con me, questa cara Lucia, ma la terrò intanto. L'accompagnerò io al suo paese, la consegnerò a sua madre e», soggiunse poi sottovoce, Voglio farle io il corredo. N'ho troppa della roba. E di quelli che dovevano goderla con me, non ho più nessuno. Così, rispose il frate, lei può fare un gran sacrificio al Signore e del bene al prossimo. Non le raccomando questa giovine. Già vedo che è come sua. Non c'è che da lodare il Signore, il quale sa mostrarsi padre anche nei flagelli, e che, col farle trovare insieme, ha dato un così chiaro segno d'amore all'una e all'altra. Orsù, riprese poi, voltandosi a Renzo e prendendolo per una mano, noi due non abbiamo più nulla da far qui, e ci siamo stati anche troppo. Andiamo. Oh padre, disse Lucia, la vedrò ancora. Io sono guarita. Io che non fo nulla di bene a questo mondo, e lei... È già molto tempo, rispose con tono serio e dolce il vecchio, che chiedo al Signore una grazia e ben grande, di finire i miei giorni in servizio del prossimo. Se me la volesse ora concedere, ho bisogno che tutti quelli che hanno carità per me m'aiutino a ringraziarlo. Via, date a Renzo le vostre commissioni per vostra madre. Raccontatele quel che avete veduto, disse Lucia al promesso sposo, che ho trovata qui un'altra madre, che verrò con questa più presto che potrò, e che spero di trovarla sana. Se avete bisogno di danari, disse Renzo, ho qui tutti quelli che m'avete mandati e... No, no, interruppe la vedova, ne ho io anche troppi. Andiamo, replicò il frate. Arrivederci, Lucia. E anche lei, dunque, quella buona signora, disse Renzo, non trovando parole che significassero quello che sentiva. Chissà che il Signore ci faccia la grazia di rivederci ancora tutti, esclamò Lucia. Sia egli sempre con voi e vi benedica, disse alle due compagne fra Cristoforo, e uscì con Renzo dalla capanna. Mancava poco alla sera e il tempo pareva sempre più vicino a risolversi. Il cappuccino esibì di nuovo al giovine di ricoverarlo per quella notte nella sua baracca. Compagnia non te ne potrò fare, soggiunse, ma avrai da stare al coperto. Renzo però si sentiva una smania d'andare e non si curava di rimanere più a lungo in un luogo simile, quando non poteva approfittarne per veder Lucia e non avrebbe neppur potuto starsene un po' col buon frate. In quanto all'ora e al tempo, si può dire che notte e giorno, sole e pioggia, zeffiro e tramontano erano tutt'uno per lui in quel momento. Ringraziò dunque il frate, dicendo che voleva andare più presto che fosse possibile in cerca d'Agnese. Quando furono nella strada di mezzo, il frate gli strinse la mano e disse: «Se la trovi, che Dio voglia, quella buona Agnese, salutala anche in mio nome, e a lei e a tutti quelli che rimangono e si ricordano di fra Cristoforo, di che preghin per lui. Dio t'accompagni e ti benedica per sempre. Oh caro padre, ci rivedremo, ci rivedremo lassù, spero». E con queste parole si staccò da Renzo, il quale, stato lì a guardarlo finché non l'ebbe perso di vista, prese in fretta verso la porta, dando a destra e a sinistra l'ultime occhiate di compassione a quel luogo di dolori. C'era un movimento straordinario, un correr di monatti, un trasportar di roba, un accomodar le tende delle baracche, uno strascicarsi di convalescenti a queste e ai portici per ripararsi dalla burrasca imminente.